Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Chi non ha o non ha avuto delle piccole fissazioni, o se preferite piccole manie, gesti o comportamenti che sono quotidiani, vivono con noi e a cui non vogliamo rinunciare, a cui siamo affezionati, perché non ci costano nulla e ci fanno sentire a posto, ci rassicurano. Possono essere gesti banali che compiamo quasi senza rendercene conto: arrotolarsi i capelli, mangiarsi le unghie, scarabocchiare, oppure comportamenti più consapevoli che mettiamo in atto perché ci fanno stare tranquilli, ci restituiscono benessere, tranquillità, ci dicono vai, è tutto sotto controllo. Volete degli esempi? Non abbiamo che l'imbarazzo della scelta. Controlli la spina dello scaldabagno e chiudi la manetta del gas prima di andare a dormire la sera e prima di uscire al mattino? Dopo aver parcheggiato, torni indietro almeno una volta per verificare di aver chiuso la macchina? Quando entri in ufficio, esegui sempre una precisa sequenza di azioni? Prima di coricarti, verifichi che tutte le finestre e la porta d'ingresso siano perfettamente chiuse? Non riesci ad addormentarti se non hai fatto un bagno caldo o se non hai bevuto la tisana della buonanotte? Scialla, il telefono squilla, ma è scialla, non ha suonato la sveglia, ma scialla. Ma insomma, non preoccupiamoci, anzi parliamone con il professor Giampaolo Perna, psichiatra e direttore scientifico della Fondazione Foripsi, che è una fondazione che si occupa di ricerca in psichiatria. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno a tutti. Allora, chi non ha una piccola mania batta un colpo, chi ne ha una o più di una chiami il nostro numero verde 800 24 00 24. Professor Perna, ne avrà sicuramente qualcuna anche lei. Eh sì, ho quella sottile mania di dover ricontrollare se l'auto è chiusa, no? Quindi allontanando un attimo dall'automobile bisogna girarsi con quella chiave e puntare verso lì, quindi ce l'ho anch'io. Questa è una delle piccole, ma ognuno di noi ne ha tante piccole. Importante è sapere che alcune sono innocue e sane abitudini, altre invece assumono significati diversi. Ma professore, perché di alcune manie noi siamo perfettamente consapevoli? Per esempio, devo controllare le mail prima di andare a letto, oppure assicurarmi che tutte le finestre siano chiuse prima di andare a dormire, mentre altre manie, forse non dovremmo definirle così, avvengono in modo quasi inconsapevole. Parlo con lei, intanto scarabocchio, lo sto facendo. Ci sono un paio di aspetti. Il primo aspetto è che dopo un po' di tempo delle manie di tipo consapevole diventano inconsapevoli, cioè diventano delle abitudini, no? Sì. Per cui controllare la macchina, facciamo un esempio molto semplice, la strada per arrivare da casa all'ufficio, sì. All'inizio stiamo attenti, poi diventa automatico, potremmo farla a occhi chiusi e talvolta addirittura lo facciamo in qualche maniera sovrapensiero. Così vale anche per le manie, cioè il controllare porte e finestre può diventare talmente automatico che uno non se ne rende conto. Il problema qual è? È che il tempo se ne rende conto, cioè noi comunque usiamo molto il nostro tempo esattamente magari fare delle cose ripetitive che possono essere inutili. Ecco, potremmo già iniziare a fare a farci un'idea del tempo che perdiamo a fare e a controllare le cose. 800 24 00 24. Voglio salutare il professor Paolo Cavedini, psichiatra e professore alla scuola di psichiatria dell'Università di Firenze, che è in linea con noi. Professore, buongiorno. Buongiorno Nicoletta e bentrovate tutti gli ascoltatori. Professore, anche lei deve confessarci la sua mania. Mi piacerebbe di rispondere che non ne ho, ma in me non è così. Io sono un po' schiavo della sveglia. La controllo più e più volte prima di addormentarmi per paura di non averla puntata, di non averla messa nell'orario giusto. E ho persino una sveglia di scorta che suona ad un orario prestabilito, così posso dormire sonni tranquilli. Probabilmente questo dipende un po' dal fatto che sono una persona abbastanza metodica, no? E quindi ho un po' idea di avere bisogno del controllare il mio tempo, e se non ce l'ho questo un po' mi disturba. Ecco, dalle nostre manie riusciamo a ad avere delle informazioni sulla nostra personalità, sul modo in cui stiamo in questo momento preciso affrontando la vita. Quindi la domanda è: dimmi cosa, come e quando controlli e ti dirò che cosa, professor Perna. L'oggetto che controlliamo, la porta di casa, le pantofole, il gas, la macchina, il cellulare oppure le posate, che cosa raccontano di noi? Voglio intanto leggere alcune messaggi che sono arrivati su Facebook, così colgo l'occasione per ricordare che potete sempre seguirci su Facebook e su Twitter. Innocenti Manie è l'hashtag di oggi, 800240024 se volete invece parlarne con noi. Allora, i messaggi da Facebook. Elisa: professore, controllo sempre le manopole gas dei fornelli prima di uscire, se ho spento i fari della macchina prima di entrare al lavoro. Tutte le mattine, poi durante la giornata, cerco e trovo le chiavi in borsa. Laura ci scrive che beve sempre un sorso d'acqua prima di dormire e non riesce ad addormentarsi se non lo fa o se le manca la bottiglia sul comodino. Un'altra Laura ci scrive che deve assolutamente fare pipì prima di uscire o di andare a dormire, anche se l'ha appena fatta. Infatti la chiama la pipì della sicurezza e anche lei deve bere prima di dormire, deve avere l'acqua al fianco del letto durante la notte, ma soprattutto non esce se non ha una bottiglietta di acqua sempre nella borsetta. E Daniele invece controlla che la porta sia chiusa a chiave, che il marito non abbia dimenticato la chiave esternamente appesa. Le è già capitato di dormire così. Comunque devo dire che con gli anni, ci scrive Daniela, sono migliorata. Una volta addirittura guardavo sotto al letto prima di addormentarmi. Professor Perna. Allora, queste carine, queste belle, tutte donne, tutte rappresentano un mondo che è molto vasto. Sì. È un mondo vasto che non è fatto di cose patologiche necessariamente. Ricordiamoci che noi abbiamo la nostra storia personale poi guida i nostri comportamenti. Quindi quando siamo nell'ambito della normalità, tanti piccoli controlli, tante piccole, tra virgolette, manie sane, in qualche maniera derivano dalle nostre esperienze passate e ci guidano per essere sicuri. La cosa importante è sapere che quando invece si innescano dei meccanismi patologici, in quel caso lì non è più importante il contenuto, cioè quello che noi facciamo, ma è importante la ripetitività e la continuità delle cose. Quindi stiamo molto attenti che il contenuto è una cosa, può essere innocua, può essere un segno di noi stessi, invece la modalità può essere una modalità che ci fa perdere tempo e diventa patologica. Valentina ci chiama da Pordenone, 800240024, benvenuta. Buongiorno, mi sentite? Benissimo, Valentina. Salve. Può diventare una piccola e piacevole mania chiamare ogni giorno a Essere Benessere per intervenire in trasmissione, una mania salutare. Allora, Valentina, ci racconti di lei. Allora, io sto cercando di combattere la mania che ho di allineare l'auto all'interno dei parcheggi. Sono in grado di salire e scendere dall'auto, controllare il parcheggio anche 5-6 volte. Ora sto cercando di abituarmi a non fare più questa cosa e se non è perfettamente in asse con la linea vado all'appuntamento a cui devo andare, ma arrivavo anche in ritardo a volte ad appuntamenti. Senta Valentina, se vuole la porto un po' in macchina io a parcheggiare, vedrà che le basta 2 o 3 giorni e poi si arrampica anche sui pali. Professor Cavedini, questa mania della linea dei parcheggi, Valentina ci dice perdevo anche molto tempo. Beh, allora, innanzitutto quello che la nostra ascoltatrice ci dice è l'aspetto dell'interferenza, no? Cioè, addirittura pur di parcheggiare bene la macchina arrivava tardi agli appuntamenti. E questo è un primo esempio di una cosa che non va bene. Di per sé un gesto può essere assolutamente normale, perché la precisione può essere un po' un aspetto di una persona perfezionista, no? Che ha una necessità di controllare un po' il mondo, ma quando diventa un elemento di interferenza, allora bisogna fare esattamente come sta facendo Valentina, cioè trattenerci e provare a rimandare il più possibile quel comportamento per vedere un po' cosa succede dentro di noi. Quindi questo è un piccolo esercizio che possiamo suggerire a chi si trova in qualche modo ingabbiato nelle sue piccole manie. 800 24 00 24, professor Cavedini, è quindi importante, come sottolineava il professor Perna, non tanto l'oggetto, piuttosto che come e ogni quanto controlliamo. Ma molti ascoltatori mi stanno scrivendo le loro manie, ci sarà differenza tra controllare le pantofole e invece controllare le mail? allora, o contare i gradini? Sicuramente, come diceva anche prima il professor Perna, non è tanto l'oggetto l'elemento cruciale, ma fondamentalmente sono due parametri. Uno è la costrizione a quel tipo di gesto e la seconda cosa è la nostra reazione che abbiamo quando quel gesto non siamo nelle condizioni di attuarlo. Però se vogliamo provare a tracciare qualche profilo, sì, perché forse questo aiuta anche i nostri ascoltatori a ritrovarsi un po' in quello che stiamo dicendo, ci sono persone che ordinano le cose in maniera molto attenta, molto minuziosa, che ripetono gesti quotidiani più e più volte, o per esempio quelle persone che fanno tendenzialmente sempre molti elenchi delle cose che devono fare, e queste sono un po' quelle persone che rientrano nel profilo dei perfezionisti e, come dicevamo anche un po' prima, quelle persone che hanno la necessità di controllare un po' il mondo che li circonda per essere tranquilli. E poi dall'altra parte abbiamo invece persone che per esempio controllano che la porta di casa non sia aperta, che abbiano chiuso il gas, che abbiano spento bene la sigaretta nel momento in cui hanno finito di fumarla. Ecco, queste persone hanno invece una componente molto più ansiosa, temono un po' l'imprevisto e tendenzialmente sono quelle persone che temono un po' le conseguenze delle loro azioni e quindi ripetono per poter stare un po' più tranquilli. Professor Perna, chi di manie non ne ha, c'è da fidarsi o c'è da insospettirsi? Abbiamo detto che la mania è legata un po', alcune manie, alcuni controlli meglio, sono legati un po' all'ansia. Mm. Diciamo così, se noi siamo molto ansiosi, apprensivi, vogliamo avere tutto sotto controllo per evitare che il mondo esterno ci cambi. Le persone un po' più libere in qualche maniera, quindi quelle che sono meno ansiose, sono quelle che si buttano un po' di più, hanno più fiducia in qualche maniera che riusciranno a superare un problema anche senza avere tutto sotto controllo. Quindi distinguiamo anche un altro aspetto. Un conto è essere incoscienti. Io mi butto, ma non sono consapevole. Vado a 200 all'ora, non ho paura e mi schianto. Altra cosa è, io sono un pilota ad automobili, so benissimo quali sono i rischi, però vado a 200 all'ora. In quel caso sono coraggioso. Quindi ricordiamoci che ci sono persone coraggiose che sono capaci di superare la propria paura e le proprie ansie, e quindi il bisogno di controllo. Ci sono persone incoscienti, invece, che non hanno paura, non hanno ansie, quindi non controllano, ma perché gli manca qualche rotella e quindi si trovano poi ad avere delle conseguenze di vita gravi. Quindi ci sono i non controllanti, sì, però è sano anche avere un po' di controllo, perché questo ci permette di dominare quello che è la realtà e di evitare di fare scelte avventate. Controllate o non controllate? 800 24 00 24, e se controllate cosa, come, quando e ogni quanto? Avanti il bambino! Mi chiamo Paolo Fabris! Cabina, non discutere! Pesiamo il frugoletto. 83 e 500. 83 e 530! Ma è un chilo più di ieri! C'è chi si pesa ogni giorno a proposito di controllo, chi ha un giorno preciso per farlo, e c'è chi invece fa prima e non si pesa mai. Il rapporto con la bilancia divide e racconta. Vi pesate? Anche questa può essere una piccola mania. Ogni quanto e quando? C'è un orario particolare? Quando vi capita? Chiamateci 800 24 00 24. Intanto noi abbiamo chiamato il dottor Filippo Ungaro, che è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora, controlliamo il peso. C'è chi lo fa con regolarità, c'è chi non lo fa per nulla e poi si trova con i vestiti che da una stagione all'altra non vanno più. Siamo nelle sue mani. Ma devo dire che effettivamente il controllo del peso sulla bilancia è per molte persone una forma di ossessione. Io vedo con i pazienti, molto spesso ti vengono riportati dei pesi presi ogni giorno, addirittura più volte al giorno, cosa che fa perdere completamente di vista le tendenze a lungo termine, perché alla fine ti focalizzi sui cambiamenti che sono quasi fisiologici, di pochi etti o di un chilo. Io consiglio, se uno vuole proprio usare la bilancia come metro per controllare il proprio peso, di non farlo più di una volta alla settimana, cercando di standardizzare le misurazioni, quindi di prendere possibilmente lo stesso giorno della settimana, più o meno allo stesso orario, e anche di trascriversi in una tabella l'andamento del peso, perché è soltanto nel lungo tempo che riusciamo veramente a capire che tendenza ha il nostro organismo, se ce l'ha l'accumulo o no. Quindi è molto importante razionalizzare l'utilizzo della bilancia e non usarla in maniera troppo emotiva, insomma. Meglio al mattino, a digiuno? Nudarelli? L'importante, così sì, pesiamo diciamo che, qualche grammetto in meno. Certo, l'ideale comunque è quello di standardizzare l'orario e la condizione del peso, insomma, comunque sì, in generale la cosa più semplice è farla sicuramente al mattino prima perché, di fare colazione. Perché insomma. Pesiamo meno e ci teniamo più sul morale, questo esatto, per questo. Diventa emotivamente più piacevole. Vero. Senta, dottor Ongor, invece si consiglia di non salire sulla bilancia se... Ma io personalmente consiglio di non salire sulla bilancia nel momento in cui so già che ci sarà un risultato che è penalizzante sul piano psicoemotivo, nel senso che se io so che ho fatto una settimana di viaggio, ho mangiato male, non ha molto senso pesarmi, sì. Ricominciamo a mangiare bene e pesiamoci dopo una settimana. Perché lì diventa un meccanismo quasi di autocondanna, cioè io so già che sto per avere un risultato negativo, quindi tutto sommato avere una conferma non è che mi aiuti molto. Poi devo dire che ci sono anche tanti altri mezzi per controllare il proprio andamento, nel senso che semplicemente i vestiti ci danno un'indicazione, mi stanno più stretti o non mi stanno più stretti, la circonferenza addominale che oggi è utilizzata moltissimo come un parametro anche per valutare il rischio cardiometabolico, lo specchio, guardarsi allo specchio semplicemente per vedere che andamento il nostro organismo sta avendo, quindi la bilancia è uno dei mezzi, forse anche da un certo punto di vista il più pericoloso per un utilizzo non veramente utile insomma alla persona. Professor Perna, vede quanti consigli che sono, hanno anche un cotè molto psico. Beh, hanno un cotè psico perché... spesse volte quello che noi vediamo di noi stessi dipende da un fattore psicologico, no? Quindi è curioso anche perché per molta semplicità, e questa è una differenza tra noi uomini e voi donne, cioè quando voi siete perfette noi vi vediamo magre, no? Quando invece noi vi vediamo perfette voi pensate avere 2-3 kg in più, quindi dipende anche dai punti di vista, no? E sono d'accordissimo che una pesatura istantanea è assurda, a me fa sorridere quando alcuni pazienti vengono da me e mi dicono, dottor Perna, sono gonfio, no? Come e lei se... deve dire, lei deve ascoltare Essere Benessere, mi promuova. Dottor Ongaro, grazie per essere stato con noi, noi ci sentiamo prestissimo. Grazie a voi, buona continuazione. Mi peserò domani. Giovanni da Varese, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Volevo solo dire un paio di cose. Uno, che ho anch'io quella mania di controllare l'automobile sempre chiusa, vedere se è chiusa, perché però molto spesso la dimentico aperta. E l'altra invece è una mania che mi è venuta quando ho costruito la casa 13 anni fa, sì. Ho fatto mettere tutti gli interruttori di casa in una certa posizione di modo che potessi controllare che quando sono diciamo schiacciati in alto tutte le luci sono spente e io devo sempre controllare di giorno, di sera. Che fatica, le fa fatica Giovanni? No, per niente, solo è una mia mania che controllo sempre. Perché bisogna vedere anche come ci rapportiamo con queste manie, perché se uno si sente quasi trascinato da una mano, mamma mia, ecco, se no non riesco a stare bene. Ma vedo che Giovanni invece, sia per la macchina, che mi sembra sia una mania molto maschile, no, di controllare, sia per gli interruttori, con i suoi interruttori abbia un rapporto felice. Professor Cavedini, che dice? Ho dato allora, un'interpretazione corretta oppure lei? Sì, assolutamente sì. Ci tenevo a sottolineare un po' quello che diceva Giovanni sul discorso dell'auto, perché a un certo punto lui dice, ma io ogni tanto me la dimentico aperta, quindi come se in un certo senso il proprio comportamento di controllo venisse un po' legittimato, no? Ci fosse una sorta di autoapprovazione. In realtà può capitare davvero che ci dimentichiamo l'auto aperta, ma bisogna stare attenti a non sopravvalutare il rischio, quindi sì, controllare fa bene, ma controllare troppo, anche se qualche volta lasciamo la macchina aperta, non è la cosa migliore. Dopodiché il secondo commento alla telefonata del nostro ascoltatore è un po' quello che dicevamo sul rapporto che si ha con certi riti. Un rapporto sereno non fa male sicuramente a nessuno e quindi si può tranquillamente mantenere. Allora, abbiamo parlato di comportamenti consapevoli che mettiamo in atto per una serie di ragioni, per tenere un po' le cose sotto controllo, per rilassarci, ma vogliamo parlare anche di altri gesti che sono quasi involontari o a metà, come quello di morsicchiarsi le unghie, di scarabocchiare, di magari attorcigliarsi i capelli, e poi ancora di gesti che compiamo per allontanare, no? La sfortuna, o perché sappiamo, secondo un po' la nostra storia, che possono portarci bene. 800 24 00 24, ricordate che si avvicina un venerdì 17, quindi ci attrezziamo. Essere e benessere. Deve aprire la busta con la mano destra e tenermela a un angolo di 45 gradi, così che io possa metterci la mano dentro, senza toccare la carta. Sì, mi sento sempre frenata. Per esempio, una cosa stupida, ma quando cammino ho l'impressione che devo scegliere tra il piede sinistro e il destro. Beh, il piede sinistro e destro non ce l'hanno ancora scritto all'8, o non hanno ancora chiamato 800 24 00 24, ma su Facebook sono arrivati altri messaggi che voglio leggervi. Ricky, le pantofole sempre allo stesso posto prima di dormire e salire sempre dalla stessa parte del letto. E questo è un segnale di quello che è una mania di ordine, no? In qualche maniera è simmetria, no? Ci sono persone che devono allineare perfettamente le pantofole, se non sono allineate perfettamente non vanno a dormire. La cosa particolare un po' delle varie cose che abbiamo sentito oggi è questo senso di essere costretti a, cioè non è un atto volontario, non sono io che ordino la casa bene perché ho il piacere di farlo, no, ma io mi sento costretto a mettere le pantofole, mi sento costretto a tenere, a controllare la macchina. Quindi questo, in qualche maniera, questo atto che uno deve fare assolutamente diventa quella schiavitù, che può essere un segnale che quel tipo di piccola mania diventa negativa, non positiva. Prima di cercare di dare magari dei consigli pratici agli ascoltatori che hanno iniziato, hanno una piccola mania con cui convivono, ma questa mania tende un po' a prendere il sopravvento, esatto. Voglio leggere al professor Cavedini il messaggio che ci ha scritto Emiliano, che sistema continuamente lo specchietto retrovisore mettendolo perfettamente in quadro con il lunotto dietro. Insomma, voi maschi con la macchina siete abbastanza fissati, professor Cavedini. Ho paura di sì, facciamo abbastanza danni. Qui il comportamento del nostro ascoltatore può avere due chiavi di lettura. Da una parte, un po' quello che si diceva relativo all'ordine, alla simmetria, quindi sì, alla posizione rispetto al resto della macchina. A volte alcune persone hanno invece questo tipo di comportamento perché temono in qualche modo di non avere il controllo sulle persone che possono attraversare la strada, quindi hanno un po' paura di poter far del male involontariamente senza volerlo ai pedoni, ai passanti o agli altri automobilisti. Quindi il controllare precisamente la posizione dello specchio è per assicurarsi di avere una visibilità ottimale, a volte eccessiva magari e non necessariamente utile, però questo li tranquillizza. Vanno molto forte anche le mollette. Mollette abbinate, sempre identiche, meglio se di colore intonato al capo. Arriva sia a Facebook sia al 349-238-6666. Professor Cavedini, non so se lei stende i panni. No, però può sempre provare, potete sempre provarci. Perché se lo facessi userei anche io lo stesso colore delle mollette, perché sta meglio, mi sembra più carino. Vero? Carla da Milano, buongiorno. Gianmauro da Pesaro e Luca da Modena, buongiorno e benvenuti a tutte e tre. Iniziamo da Carla, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io chiamavo per raccontare la mia esperienza. Dunque, a me è stato diagnosticato un disturbo ossessivo compulsivo. Sì. Già da oramai sarà 15-18 anni. E allora, io volevo dire, io ho iniziato da ragazza in questo modo, cioè per esempio con le pantofole che se non erano messe allineate perfettamente non salivo sul letto, però in questo modo lo facevo senza pensare alle conseguenze. Quello che mi è successo dopo, per esempio dopo che ho avuto un cambiamento nella mia vita, no? Quindi questa è stata la molla, secondo me, che ha fatto... Queste manie, iniziavo ad avere le manie, ma legate all'ossessione che succedesse qualcosa se non facevo quello, cioè per esempio se non metto le pantofole allineate tutte e due in questo modo muore mia madre, per dire, se non entro col piede sinistro da questo portone mi muore il cane, per dire queste cose. Oppure va male il colloquio, insomma, quindi abbinava. Ecco, no, però devo dire la verità che purtroppo queste cose erano sempre legate a pensieri di morte. Mm-hmm. Senta Carla, parla al passato, quindi adesso come allora, si sta gestendo questa... No, bene. Allora, io mi sono curata per anni con dei farmaci e adesso... Io non sto più prendendo niente, tra l'altro poi ho avuto altri cambiamenti nella mia vita, molto, anche molto più importanti, anche più belli, quindi non no, ecco, ci sono dei momenti, quando per esempio devo prendere delle decisioni o delle cose, in cui faccio fatica, cioè dico magari, aspetta, devo prendere un paio di calze nell'armadio, no, prendo queste, però mi passa subito. Invece prima il pensiero era costante, cioè io non ho neanche più potuto lavorare per un periodo perché non riuscivo proprio a liberare il cervello da questa cosa, cioè era come se avessi due cervelli. Allora, intanto ringrazio molto Carla, perché raccontandoci la sua esperienza ci permette di, noi finora abbiamo parlato di manie, fissazioni col professor Cavedini e il professor Perna, che sono un po' le compagne della nostra quotidianità, farle non farle, insomma, ci rassicurano, ma sappiamo che in alcuni casi, in alcune situazioni invadono la nostra quotidianità, la nostra mente, i nostri pensieri, e allora diventano patologiche. Carla ci ha raccontato con grande generosità la sua esperienza e ha sottolineato alcuni passaggi chiave che mi piacerebbe commentare con i nostri ospiti. Professor Perna. Ma innanzitutto è verissimo che è stato un intervento molto ricco, pieno di suggerimenti. Allora, prima cosa, le manie possono partire da piccole cose e poi invadere la vita. Quindi noi possiamo avere un'attenzione a un qualche cosa, poi ritrovarci col tempo ad avere l'attenzione verso tante cose differenti. Quindi questa è una prima cosa importante. Quando le piccole manie che abbiamo personalmente invadono altri campi, allora bisogna mettersi un bel punto di domanda e cercare di capire cosa sta accadendo. L'altro punto è il discorso della scaramanzia. Questo ci riporta anche a un tema che ha tirato fuori il professor Cavedini. Ci sono delle persone che hanno una paura assurda ed è frequente, cioè la paura di aver fatto male o investito qualcuno in automobile, che li costringe a tornare indietro a controllare. Ed è terribile, perché una persona pensa di essere fuori di testa, dice io sono matto, perché non è la persona con queste manie, col disturbo ossessivo compulsivo, non è matto, cioè riconosce molto bene la situazione, però ha la paura, tant'è che molte persone con questo disturbo proprio non vanno dai medici perché hanno paura di essere presi per matti. In realtà sono solo dei problemi che coinvolgono i pensieri e l'ansia e non riguardano la parte nobile del cervello. Quindi se avete paura chiamateci 800 24 00 24, tranquillizzatevi parlando con i nostri esperti. Andiamo a sentire professor Cavedini, voleva intervenire a chiusura di a commento? Volevo solo magari tranquillizzare un po' le persone che in questo momento si ritrovano nei piccoli rituali quotidiani che dicevamo prima, che non è detto automatico che i piccoli quotidiani diventino un elemento patologico. Sono due percorsi simili da un punto di vista del modo con cui si manifestano i riti patologici da quelli sani, ma non necessariamente i primi degenerano nei secondi, insomma, non creiamo un elenco di persone malate. Insomma, assolutamente, questa è una trasmissione che vuole permettere alle persone di raccontarsi e di rassicurarsi. Diciamo un'altra cosa molto importante, nei bambini è facile che ci sia la tendenza a fare per esempio file di macchinine, a mettere tutto in ordine, stiamo attenti a non confondere questo è un comportamento del bambino che può essere un comportamento assolutamente normale. È chiaro che se io sono un bambino e allineo le macchinine, come faceva mio figlio, faceva delle file lunghissime, è un conto. Sì. Se io sono un adulto e allineo le macchinine, è un altro paio di maniche. Quindi molti comportamenti ripetitivi e piccole manie dei bambini devono essere considerate normali. È chiaro che va verificato quanto questo interferisca con la vita del bambino stesso. Compiamo, come abbiamo detto anche e abbiamo anticipato, dei gesti scaramantici, 800 24 00 24, se volete parlarne con noi, ma il professor Perna vi suggerirà anche una mania da coltivare. Ecco, ci sono dei gesti ripetitivi che portano benessere. Pensate ai mantra. Essere e benessere. Eccoci qua, Gianmauro, buongiorno, ci chiama da Pesaro. Buongiorno. Buongiorno, anche lei controlla... Gianmauro. No, Io ero curioso di chiedere questo al professore. Io non ho particolari manie che concernono con la sicurezza, cioè non controllo le finestre, non controllo il gas, quelle sono cose che fa più mia moglie, diciamo. Io ho delle manie diverse, del tipo apparecchio sempre nello stesso modo, e questo è poco male, ma quando vai a casa di qualcuno e gli riapparecchi la tavola Gianmauro, che carino, non è particolarmente, perché se ne accorgono, tu non te ne accorgi nemmeno, e poi ti chiedono scusa, dice ho apparecchiato veloce, perdonami, fai una gran figuraccia, insomma. Oppure un'altra mania stupidissima è quella di contare quanti secondi deve stare in immersione quel particolare biscotto. Niente, volevo capire che tipo di mania. Ma mi piacciono le sue manie, Gianmauro. Professor Cavedini. Beh, innanzitutto direi che se lo invitiamo a cena siamo a posto, possiamo farlo direttamente apparecchiare, così non lo facciamo due volte. Questo potrebbe essere il primo suggerimento. Ma pur bizzarre che siano rispetto a quelle più tradizionali di cui abbiamo parlato sin qui, sono anche queste manie che rientrano nei meccanismi della ritualizzazione rispetto all'ordine, alla precisione, no? A tutti questi aspetti, quindi questa è una di quelle situazioni in cui, come diciamo prima, poi il contenuto non conta, il contenuto della nostra mania, del nostro rito, ma è un po' lo schema che si ripete andando a pescare nella quotidianità un po' tutti gli aspetti del contenuto che ci interessa. Però a volte aiuta, ad esempio, avere un compagno che apparecchia la tavola e la moglie sarà sicuramente sollevata. Assolutamente. Luca, buongiorno da Modena, benvenuto. Buongiorno. Lei fa cosa fa lei? Io sono, diciamo, un po' maniaco dall'età di 18 anni, ho le piccole manie scaramantiche e volevo portare appunto la mia esperienza, perché secondo me non sono cose da sottovalutare tanto, perché possono peggiorare nel tempo se non prese in tempo. Io ho cominciato, non so come, forse mi è capitato qualcosa da più giovane, ho cominciato una sera e ho messo dentro la macchina nel cortile, ho chiuso il cancello, dopodiché ho cominciato a toccare il cancello svariate volte, la maniglia, finché non ho non ero sicuro di averla toccata in un certo modo, aver messo la mano in un certo modo, e stavo lì anche se pioveva, se nevicava, poi andavo dentro in casa e chiudevo la porta tre o quattro volte facendo un rumore assurdo, per fortuna abito da in una casa privata, diciamo, e poi andavo a letto, praticamente ci mettevo due ore ad andare a letto, ecco. Anche mio padre cosa le ha detto? Luca un po' preoccupato, ecco. ha detto Luca è ora di smetterla, l'avrà detto ora così di smetterla. Allora chiediamo al professor Perna, allora abbiamo noi, di aiutarci a fare un po' una distinzione, sono arrivate tante testimonianze, alcune manie e ossessioni, fissazioni sono assolutamente fisiologiche, normali, anzi ci aiutano anche un po' a rassicurarci e perché no a vivere meglio, e questa è la gran parte delle manie. Ci sono alcuni ascoltatori che invece ci raccontano che la mania inizia a mangiare, rosicchiare tempo e quindi diventare un po' invadente. Ci aiuta a capire magari con un paio di esempi quali sono le differenze e come autovalutarci? Allora, Luca ha ragione, è una condizione da prendere molto seriamente perché rovina la vita alla persona e ai familiari, quindi questo è un primo punto importante. Come distinguerli? Sicuramente su quanto interferiscono con la vita di una persona, quanto tempo mangiano. Questo è molto importante, quindi se noi facciamo qualche cosa che ci comporta una ripetizione, due, ma non ci disturba il nostro quotidiano, è un qualche cosa che può essere positivo. Se ci disturba e mangia tempo, no. L'altra cosa importante è la capacità di resistere, cioè se io posso dire ok, non lo faccio e faccio qualcos'altro, vuol dire che forse è controllabile. Se io invece sono costretto a farlo, come ci dimostra Luca nel racconto che ci ha fatto, allora deve essere qualcosa di serio con cui ne vale la pena di parlare con un professionista. Professor Perna, in chiusura dedichiamo l'ultimo minuto a gesti ripetitivi che possono portarci benessere. Sì. Lei ne accennava prima, ispirandosi allora, al mantra, no? È molto importante ricordarsi che il ripetere le cose, se è un atto volontario, no, diventa anche un atto che ci fa star bene, quindi la meditazione per esempio è ripetere un mantra, il rosario è ripetere, questa non è una mania ovviamente, diventa una modalità di trovare quel ritmo mentale che ci dà pace, che ci permette di avere attenzione. Quindi ricordiamoci che non tutte le ripetitività sono segnale patologico, non tutte le ripetitività sono negative, ma ce ne sono alcune che sono molto positive. Professor Cavedini, un consiglio per chiudere anche da lei. Ma rispetto a quello che si diceva prima, quello che farei è consigliare agli ascoltatori di mettersi un po' alla prova. Sì. Quindi riuscire a provare a trattenersi e vedere cosa succede. Mm-hmm. Aumenta l'ansia, siamo tranquilli, quindi riusciamo a trattenere il nostro comportamento, significa che abbiamo il controllo sul nostro comportamento e non viceversa. Grazie professor Cavedini, grazie al professor Perna, Gianmarco Ferronato in regia alla parte tecnica, a Laura Vanossi in redazione. A proposito di controllo, ho controllato i secondi, così posso dirvi che potete continuare a scriverci, a visitare la nostra pagina e il nostro Daily Lab. Per oggi è tutto, grazie a voi, grazie ai miei ospiti, a domani. Essere e benessere.